Sì, il libro è molto bello, il titolo forse è stato scelto anche per esercitare una certa attrazione, il Golfo di Via Fani, in un periodo nel quale in Italia si parlava molto di golfe, negli anni 70. Io non credo che ci sia mai stato un rischio effettivo di golfe e questo serve a introdurre la situazione di allora. Moro aveva avviato un'operazione che a mio giudizio non comportava affatto l'ingresso dei comunisti al governo, comportava la possibilità di guadagnare tempo, di lasciare i comunisti in mezzo al guado, come poi effettivamente avvenne. La strategia di Moro era un recupero di consensi, di gestibilità politica di una situazione difficile da parte della Democrazia Cristiana. Questo mi fa dubitare di una situazione nella quale ci fosse uno specifico interesse fuori dall'Italia, negli Stati Uniti o nell'Unione Sovietica, per rendere difficile una supposta operazione che a me pare abbastanza improbabile. Il libro di Deluzzi è molto bello, ha molti elementi di novità. Per quanto riguarda il sottotitolo, semmai interverrà lui e preciserà su questo, mi pare che le possibili connivenze internazionali rimangano molto sullo sfondo. Ripeto, anche recentemente Repubblica ha pubblicato un documento che avrebbe dovuto essere sensazionale appunto su progetti di golpe, un documento dei servizi del Ministero della Difesa inglese, del Ministero degli Esteri inglese, che secondo me dice esattamente il contrario, dice che nessuno pensava allora fuori d'Italia a possibili golpe e in fondo lo stesso Moro aveva recuperato la fiducia degli Stati Uniti, che aveva parzialmente perso nel 73, perché non dimentichiamo che sono passati 5 anni importanti dalla crisi dei rapporti italo-statunitensi gestita appunto da Moro, il malore di Moro negli Stati Uniti, le minacce di Kissinger. Tutto questo è reale, queste cose ci sono state e rappresentano senza dubbio un intervento americano per influenzare la politica italiana, ma erano passati 5 anni e Moro, che aveva lasciato capire che forse dopo queste pressioni avrebbe lasciato la vita, addirittura la vita politica, in realtà si riprese dal malore, rimase nella vita politica e invece, non dimentichiamolo, col 76 se ne andò Kissinger e prima se n'era andato anche Nixon. Quindi la situazione internazionale era cambiata proprio nel senso che ho indicato, cioè Moro aveva recuperato la fiducia degli Stati Uniti, lavorava in perfetta sintonia con Andreotti, diede un aiuto decisivo a formare il governo Andreotti doveva chiedere la fiducia proprio il 16 marzo e quindi anche le preoccupazioni dell'Unione Sovietica per una politica autonoma del Partito Comunista Italiano che senza dubbio c'erano proprio in occasione della campagna elettorale del 76 e in vista di una possibile partecipazione dei comunisti, se non al governo, almeno alla maggioranza parlamentare, cosa che avvenne proprio nel 78 e con un certo ritardo, Berlinguer in una famosa intervista aveva dichiarato che il Partito Comunista accettava la partecipazione alla NATO e quasi quasi lasciava credere che quello che ancora per eredità togliattiana si chiamava la via italiana al socialismo avrebbe trovato meno difficoltà in Occidente che non nella sfera di influenza sovietica. Tutto questo è reale, così come sono reali, come ho detto prima, le pressioni americane su Moro nel 73, ma configurano una situazione in movimento nella quale, almeno per quanto abbiamo registrato sinora, ma Deluzzi potrà aggiungere qualcosa alla ampia occasione, non mi pare che negli Stati Uniti, che appunto erano rassicurati dal tandem Moro-Andreotti che guidava la politica italiana, anche se naturalmente Moro proprio nel suo ultimo atto politico, anzi il penultimo, l'ultimo è stato la conferma sostanziale di un governo moderato, il penultimo a fine febbraio era stato convincere i gruppi parlamentari della Democrazia Cristiana nei quali era diffusa una notevole resistenza ad accettare il Partito Comunista ufficialmente della maggioranza parlamentare. Moro aveva fatto uno sforzo di convinzione nei confronti del gruppo parlamentare, c'era riuscito con la consueta abilità, ma appunto la prospettiva non era di preparare i comunisti ora al governo, ora alla maggioranza e poi al governo, la prospettiva era diversa, ora al governo si ragionava allora sulla possibilità, ora nella maggioranza, questa maggioranza avrebbe dovuto favorire l'ascesa di Moro al Quirinale, l'elezione era prevista alla fine dell'anno, poi fu anticipata dopo il suo assassinio, e il secondo tempo era il ritorno dei comunisti all'opposizione. Dopo, in un periodo di tempo che si poteva calcolare attorno al decennio e che Moro pensava di gestire da Presidente della Repubblica, si sarebbe potuto realizzare quell'ipotetico terzo tempo nel quale un'evoluzione in senso socialdemocratico, che era in corso e che si sarebbe poi completata, del Partito Comunista, avrebbe consentito alla Democrazia Cristiana di uscire da quello che lo stesso Moro definiva l'obbligo di governare, appunto per l'assenza di una alternativa all'interno del sistema di modello socialdemocratico. Quindi, per quanto riguarda la situazione di allora, io penso che Moro, d'accordo con Andreotti, aveva avviato un'operazione di questo tipo: i comunisti nella maggioranza, poi il loro ritorno all'opposizione, ma naturalmente prospettiva pluriennale di una loro evoluzione in senso socialdemocratico da gestire dal Quirinale. Naturalmente si pone un problema che credo non sia ancora stato risolto, perché in questo contesto ci fu e si accelerò forse l'iniziativa delle Brigate Rosse e una serie di circostanze, secondo me tuttora non chiarite, fanno di quel 16 marzo, che doveva essere l'avvio di questa operazione, coi comunisti ancora leggermente incerti se votare nella nuova maggioranza, perché Moro, avevo detto, il penultimo atto era stato convincere i gruppi parlamentari democristiani, l'ultimo fu sostanzialmente di non cambiare il governo, cioè di lasciarne l'impronta moderata, di non farvi comprendere ministri che dessero il senso, anche non comunisti ovviamente, che dessero un certo senso di cambiamento. Quindi il Partito Comunista era ancora parzialmente incerto su come comportarsi il 16 marzo, perché in quel caso attenderemo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio. Quali sarebbero state le dichiarazioni di Andreotti se Moro non fosse stato rapito? Non lo sappiamo, perché di questo rapimento, proprio in quella circostanza, nel mattino nel quale Moro doveva andare alla Camera, accadde questo evento. Una concomitanza, un progetto, questo francamente non lo sappiamo ancora. Cioè non, certamente fu programmato per quel giorno, che fosse stato e fu preparato prima con una serie di vicende abbastanza note. Che dovesse coincidere proprio con questa giornata, può esserci ancora qualche incertezza. Le dichiarazioni dei leader delle BR sono largamente inattendibili per tante ragioni. Su questo punto presentano la circostanza come quasi casuale, perché se non fosse riuscito quel giorno eravamo pronti a effettuarlo in uno di quelli successivi. Ripeto, questo può essere una questione in parte ancora aperta, a meno che anche in questo dibattito non escano questioni che invece possono illuminarci proprio su questo aspetto, perché proprio quel 16 marzo era una data prefigurata e insostituibile, oppure no, oppure fu favorita da una serie di circostanze o di connivenze che io reputo soprattutto interne, non internazionali. Interne, e qui veniamo alle protezioni occulte. Queste certamente ci furono e spiegano perché il caso Moro presenta molti aspetti che non sono affatto chiariti. Questo è in fondo il dibattito che ancora a 30 anni di distanza c'è in Italia, con una profluvia di pubblicazioni. Sostanzialmente ci sono due posizioni: il campione della prima, cito per tutti Vladimiro Satta, che esprime anche in parte la convinzione del Presidente Cossiga, allora Ministro degli Interni e personaggio non secondario della vicenda, secondo la quale è tutto chiaro, l'operazione fu fatta dalle BR, non ci sono retroscena da investigare. E poi invece c'è un'altra corrente di pensiero che indica i punti tuttora non chiariti. In questo senso, e quindi le protezioni occulte che si possono ipotizzare. In questo senso il libro dei Deluzzi dà un contributo molto importante. Io mi sono segnato qui una serie di punti, ma io non parlerò un'ora e mezza, come ironicamente mi è stato detto, molto meno, però voglio sottolineare due che mi sembrano assolutamente fondamentali e che il libro rende noti ed espliciti per la prima volta. Sono contributi molto importanti. La prima è: le VR fecero un primo comunicato annunciando il sequestro e dicendo che tutti i loro comunicati sarebbero stati riconoscibili dai caratteri, una certa testina rotante su una macchina da scrivere elettrica, questo per evitare contraffazioni e intrusioni esterne. Quindi i nostri comunicati, dissero le BR, saranno chiaramente identificabili in questo modo. Poi ci fu un famoso finto comunicato, una manipolazione dei servizi italiani, un finto comunicato BR che diceva che Moro è stato ucciso, che il suo cadavere si trova nel lago della Lucchese, cosa assolutamente impossibile, era un lago a 2000 metri gelato in inverno. Quindi un comunicato falso che sembrava confermare quello che il BR avevano detto all'inizio: stiamo attenti che dovete identificare con certezza i nostri comunicati ed evitare il rischio che altri si intromettano nella vicenda con comunicati finti. Ora, il libro di Ruzzo rende noto con chiarezza per la prima volta che in realtà il primo comunicato è stato redatto da una macchina con quella che si è rotante, identico al comunicato falso, il cui protagonista di questo comunicato falso era un uomo legato ai servizi, legato alla banda d'Armagliana, legato a varie vicende, Chicchiarelli, che poi venne assassinato. E quindi noi abbiamo di fronte un fatto nuovo e che modifica alquanto tutto quanto era stato detto sinora attorno a questi comunicati. Il primo comunicato delle BR è stato redatto da persone che avevano lo stesso mezzo di comunicazione del comunicato falso. E allora questo è un primo elemento nuovo sul quale riflettere, che stabilisce effettivamente una serie di un retroterra di protezioni occulte e di relazioni non ancora individuate che stanno dietro le BR, che per un verso erano certamente un prodotto della storia della sinistra italiana, non erano stati inventati dai servizi, erano un pezzo di storia della sinistra italiana, una lontana derivazione anche del 68 che viene ricordato anche in questi giorni, anche stasera con il libro di Capanna. Quindi per un verso le BR erano certamente questo, ma dietro di loro vi era una rete di interessi che soprattutto secondo me miravano a evitare uno sbocco della politica italiana, che non era neanche comunisti al governo, ma che da alcuni era temuto, anche se Moro non lo voleva fare. Vi era una preoccupazione diffusa dei comunisti al governo, era molto diffusa soprattutto dai servizi, e gli interventi dei servizi vi furono certamente, oltre a quello noto che dicevo prima del lago del lago della Duchessa. In questa situazione c'è un secondo elemento importante che De Ruzzi propone come nuovo, ed è il fatto che ci fu una telefonata decisiva. Il 30 aprile la famiglia Moro, che era favorevole alle trattative, contrariamente al Partito Comunista e alla Democrazia Cristiana, mentre alcune soluzioni di possibili trattative costituzionali sosteneva sempre, le faceva il Partito Socialista, che era guidato da 2 anni da Bettino Craxi. Dunque una telefonata alla famiglia Moro nella quale si chiedeva perentoriamente che la Democrazia Cristiana decidesse per un riconoscimento politico alle BR. Del resto lo stesso Moro l'aveva definito partito armato, ma in realtà erano considerati un'organizzazione di criminali fuori legge. Quindi in questa telefonata viene chiesto perentoriamente alla famiglia Moro che intervenga presso Zaccagnini, segretario della DC, sulla DC, perché conceda quello che le BR chiedevano, il riconoscimento di essere un soggetto politico combattente. Probabilmente non se ne fece loro, ma chi fece questa telefonata? Molti problemi, in un primo tempo si disse che era stata fatta da Toni Negri, poi lui provò che era a Milano, che non c'entra nulla. Alla fine tutti furono d'accordo, BR, magistratura, inchieste ufficiali, che l'autore della telefonata era lo stesso Mario Moretti, il leader in quel momento delle Brigate Rosse. Ora sembra invece, quindi tutti sporta per la prima volta un documento molto importante, che uno dei più stretti collaboratori di Moretti. Moretti disse che aveva incontrato solo 2 intellettuali al vertice delle BR, uno era Genzani, del quale qui non parleremo per non complicare troppo le cose, e l'altro era Enrico Fenzi, che era un professore dell'Università di Genova, che era stato già inquisito, poi rilasciato, Bene, Fensi dice con sicurezza, e l'ho ripetuto direttamente all'autore dello testo, che in realtà quella telefonata non la fece Moretti e ci erano già in proposito dei dubbi. E di nuovo questo cambia la situazione, perché abbiamo una telefonata che è una sorta di ultimatum, è l'ultima telefonata che fanno le BR su questo argomento. Poi diranno che eseguiranno la sentenza, faranno altri comunicati. Comunque la telefonata del 30 aprile è decisiva, è l'ultimo tentativo delle BR di ottenere un riconoscimento politico attraverso la pressione della famiglia Moro sulla Democrazia Cristiana. Se non l'ha fatta Moretti, e adesso possiamo dare per acquisito che non l'abbia fatta lui, vi è da dedurre che uno dei principali momenti di questi 55 giorni ha un autore non ancora identificato, che si collega a una serie di vicende che fanno supporre che in realtà molte cose sono state diverse da come sono state raccontate. E collegato a questa vicenda, De Luzzi si introduce un altro elemento, un'analisi, questa non è una novità assoluta, però l'ha colta e l'ha sottolineata in questo libro, uno strano libro di uno studioso fiorentino, morto anche lui, ma di morte naturale, non assassinato come Chicherelli, almeno per quanto se ne sa, Vittorio Vettori, che scrive uno strano libro come se fosse il diario di Moro in carcere. Questo è già abbastanza strano, un uomo di cultura, insomma, questo è un dramma quello di Moro, è uno dei drammi della recente storia italiana. E scrivere un finto diario mi sembra già una cosa un po' strana, ma la singolarità di questo finto diario, di questo studioso fiorentino, è che Moro scriverebbe il suo diario di prigionia non chiuso in un bugigattolo in via Fani, dove non poteva neanche lavarsi, dove non poteva muoversi, tutto risultato assolutamente infondato. C'è in proposito un saggio che ha scritto, è morto anche lui da poco, Alfredo Aldo Moro, Alfredo Carlo Moro, il fratello di Aldo, che disse che le condizioni del cadavere smentiscono completamente la storia delle BR, secondo cui stava appunto in 2 metri quadrati senza lavarsi, scrivendo appoggiato con i fogli appoggiati sulle ginocchia, una ricostruzione comunque del tutto infondata. Quindi Moro stava certamente in un altro luogo relativamente più comodo. Ma il fatto è che Vettori, chissà perché, descrive questo luogo, descrive Moro in una biblioteca dove ci sono molti libri, così molto, anche molto raffinati, in parte di argomento religioso. E questo pone naturalmente un problema: come mai un signore che poi era amico di un docente universitario, Mercadante, il cui ufficio all'università era vicino a quello di Aldo Moro, quindi qualche circostanza sulla quale è abbastanza strana, come credo possiate dedurre facilmente, come c'è una tragedia italiana e un professore scrive un finto diario dove descrive con molta precisione un ambiente del tutto diverso da quello ufficiale. Perché è un messaggio indirizzato a chi, perché cosa, come gli è venuto in mente di farlo, su questo non si indaga. Questo è collegato alla storia della telefonata, perché lascia supporre che dietro le BR ufficiali ci fossero delle protezioni o delle presenze occulte che in qualche modo li hanno aiutati, e questo è un tema importante. Io ne ho cito due, poi il libro vi consiglierei, visto che siete interessati alla storia contemporanea, leggetelo, perché vi sono molte altre cose. Adesso volevo invece aggiungere che proprio per caso una decina di giorni fa è riemersa la storia di un'altra telefonata. Tenete presente che nel libro di Tenuti si sottolinea che ci sono rapporti ancora non ben definiti, anche questi oggetti di romanzi come quelli di De Cataldo, tra le Brigate Rosse, i servizi e la banda della Magliana, che è legata a tante vicende, compreso il Banco Ambrosiano, una banda di ragazzacci da strada che stranamente conquista un grande potere nella Roma degli anni 70. È un pezzo di storia italiana sul quale sarebbe anche qui interessante indagare. Ora, il capo di questa banda della Magliana è Enrico De Pedis, detto Renatino, assassinato anche lui, come voi sapete, gli anni 70 sono ricchi di omicidi di tutti i tipi, di tutti i generi. È sepolto in una delle più prestigiose basiliche romane, Santa Apollinare, E questo è un fatto abbastanza sorprendente. Come mai? La banda della Magliana è legata a queste cose, traffico di droga, tratta delle bianche, insomma, comportamento. Infatti è stato messo lì per un intervento diretto del cardinale Poletti, che era molto importante, un po' come Ruini ora, un personaggio che negli anni 70 aveva lo stesso ruolo e la stessa influenza. E quando emerge questo fatto da alcune inchieste di quella brava giornalista di Repol, soprattutto la Gamanelli, questo strano fatto di questo capobanda sepolto in un luogo così prestigioso e sacro alla religione cattolica, alla banda, perché dice, perché era buono coi poveri. Renatino era proprietario anche di alcuni ristoranti. Quando in questi ristoranti c'erano ristoranti anche di prestigio, no? Non trattoriacce, no? No, ristoranti ben frequentati, e c'erano degli avanzi abbondanti anche di buona qualità, e cosa faceva Renatino? Li dava ai poveri. E siccome era buono coi poveri e voleva essere seppellito in una basilica, ma sì, mettiamolo in Santa Pollinare. Anche questo è una storia un po' strana, come quella del libro di Vettori. Bene, pochi giorni fa, in una trasmissione, chi l'ha visto, l'ho seguito perché era stata annunciata questa pensa, si parla anche lì di una strana telefonata legata al sequestro di Emanuele Orlandi, altro fatto misterioso e mai chiarito. E mi ha colpito il fatto che anche lì c'è una telefonata alla famiglia Orlandi. E un personaggio della banda della Magliana, Antonio Mancini, legato a molte vicende, poi c'è tutta la storia di Mino Pecorella, legato a molti misteri di quegli anni, dice di riconoscere l'autore di questa telefonata, che è una persona della banda della Magliana e che potrebbe essere lo stesso Renatino, il quale, dice lui, potrebbe essere anche la persona, da come è stato descritto, che aveva avvicinato Emanuele Orlandi poco prima che sparisse definitivamente dalla circolazione. E allora qui abbiamo una situazione abbastanza strana a proposito di protezioni occulte, che potrebbe far pensare che invece la ragione per la quale Enrico De Petris sta in un luogo tanto prestigioso, nonostante può essersi pentito in punto di morte, ma sembra non abbia fatto il tempo perché era su una motoretta e gli spararono una raffica, morì, forse ha fatto in tempo a pentirsi, ma insomma non è probabilissimo. Allora potrebbe essere legato a qualcosa di più che al dare gli avanzi dei ristoranti ai poveri. Ah, una storia che si collega, questo mi ci ha fatto pensare proprio per questa strana vicenda, pure sulla quale non si è minimamente indagato, di una telefonata importante, perché la storia del sequestro di Emanuele Orlandi e di tutte le telefonate che vennero fatte in occasione di questo sequestro è legata alle vicende di tutti quegli anni e anche all'attentato al Papa a Liesca. Il padre di Emanuele Orlandi lavorava nell'ufficio nel quale venivano lasciati i permessi in occasione della circolazione del pontefice, e poco prima che venisse che ci fosse l'attentato del maggio dell'81, vi è una foto che Giovanni Paolo II visitava una chiesa di Roma e si vede Aliasca a 2 o 3 metri di distanza da lui. In quel luogo si poteva arrivare solo con permessi speciali. Il padre di Emanuele Orlandi lavorava nell'ufficio nel quale questi permessi erano lasciati, quindi una storia che può essere collegata. State bene attenti a proposito dell'interesse, non si configurano strane dietrologie. Ho detto prima, e ci tengo molto a sottolinearlo, che secondo me non c'erano situazioni internazionali tali che motivassero un interesse degli Stati Uniti, della CIA, dell'Unione Sovietica, del KGB, a intervenire in qualche modo per bloccare la linea politica di Aldo Moro. In questo ambito io non vedo, da studioso del sistema politico italiano, non vedo nessuna dietrologia, e ritengo invece che vi fossero situazioni italiane nelle quali vi erano certamente interessi per impedire uno sviluppo politico che non comportava il PC al governo, Moro non ce lo voleva, ma che avrebbe potuto comportare una razionalizzazione del sistema politico italiano e soprattutto lasciare molto meno spazio alla criminalità organizzata, anche qui ci sono tante storie legate al sequestro Moro, al tentativo di far intervenire la mafia, Paulino Montade, al tentativo di far intervenire la 'Ndrangheta. Ci sono vari aspetti di questo tipo che potrebbero spiegare situazioni di protezioni occulte dalle quali non sarebbero stati estranei anche ambienti autorevoli legati alla Chiesa Cattolica, che hanno fornito alle Brigate Rosse quello che il sottotitolo del libro definisce giustamente protezioni occulte, e che ci permettono, ci inducono a chiederci perché tante cose del sequestro Moro rimangono non chiarite, che sostengono alcuni storici, appunto come Vladimiro Satta. Ecco, direi che la identificazione del comunicato numero 1 con la stessa macchina del comunicato numero 7 viene, cita De Lutis, l'avvocato Zuppo, che è una delle persone che sin dall'inizio, in uno dei primi libri, è un avvocato, e lavorava come consulente legale per il Partito Comunista, mi pare, e in uno dei primi libri, La tela di ragno, uscito sul problema del sequestro Moro, si fa specifico riferimento allo IOR, ad ambienti vaticani, che in questo primo libro su questo problema ha singolari analogie con l'ambiente descritto nel romanzo fantastico di Vettori, del quale ho parlato prima. Quindi allora possiamo immaginare una rete di protezioni attorno alle BR che non riguarda affatto la CIA, che non riguarda affatto il KGB, ma riguarda un fenomeno che ha travagliato l'Italia degli anni 70, una serie di intrecci e di collegamenti tra servizi, banche come il Banco di Roma di Scalfari, organizzazioni criminali molto note e consolidate come la mafia o la 'Ndrangheta, ma anche organizzazioni abbastanza improvvisate come la Banda della Magliana, che comunque in quegli anni erano presenti in molte di queste situazioni. Io credo che ulteriori indagini, forse ulteriori chiarimenti in questo senso, ripeto, il libro De Lutis dà dei contributi molto nuovi e molto importanti, possa essere indicato. Ulteriori ricerche potrebbero andare nella direzione non di individuare possibili connivenze internazionali, anche se non si possono escludere, dalle quali sinora indicazioni precise non sono state comunque individuate, bensì una rete di situazioni molto presenti anche in altri casi, al di fuori del sequestro Moro, nell'Italia di quegli anni, gli intrecci tra certi settori finanziari, certi settori di delinquenza organizzata, settori dei servizi e sullo sfondo alcuni misteri vaticani ancora non del tutto chiariti.